Ancora incerte invece la panchina del Real Madrid. Sapete che in questo fine settimana ci saranno le elezioni presidenziali, Florentino Perez verrà rieletto presidente del Real Madrid, però sembrano in pericolosa caduta libera le azioni di Carletto Ancelotti, perché c'è chi dice, scommette, compresi i bookmakers, che hanno dato una quota stracciata su Jupp Heynckes invece al nuovo allenatore del Real Madrid. Mi dispiacerebbe molto per Carlo Ancelotti. Tutti convocati Magazine. Allora torniamo, ci sono molti ascoltatori che spesso, ascoltatori che sono il vero oro di questo programma durante la settimana, tanto che anche oggi faremo riascoltare le vostre voci, le voci più belle, interessanti, divertenti, dei vostri interventi durante la settimana. Bene, molti qualche volta ci accusano di, ma come parlate solo di calcio? Secondo me l'accusa è ingiusta e io mi metto alla sbarra e sono pronto a difendermi, perché ogni giorno abbiamo aperto una finestra sullo sport del momento, sullo sport ancora vivo in questo momento, che ci sta dando grandi sensazioni, playoff di basket italiani e americani, e ogni giorno vi abbiamo raccontato con i protagonisti stessi questi playoff. Serie tra Roma e Cantù, abbiamo sentito il miglior giocatore italiano di questa, anzi il miglior giocatore di questa stagione che è italiano, cioè Gigi D'Antoni, stella di Roma. Sentiamo. Senti, Roma infinita, Roma veramente infinita, siete onestamente risorti in gara 1 con Cantù, avete diciamo controllato mentalmente gara 2, smentiscimi se puoi. Sì, siamo sul 2-0 mantenendo vantaggio del campo, questa è la cosa più importante. Gara 1 per come si era messa ovviamente meritava Cantù, ma abbiamo avuto una reazione pazzesca di orgoglio, di voglia, e miracolosamente l'abbiamo portato a casa. Ieri invece, se dopo gara 1 uscivo al campo rendendomi conto che forse meritava Cantù, appunto Cantù c'era stato superiore, ieri mi sono reso conto che valiamo Cantù se non di più. Abbiamo condotto la partita e siamo stati bravi a gestire appunto gli ultimi possessi. Beh, non mi sembra una convinzione da poco, anche da trasmettere, no, al gruppo, infatti, di cui sei leader, cioè infatti, domani sera a Cantù e sul 2-0 un materasso abbastanza comodo, anche perché il Palatiziano diventa improvvisamente un buco troppo stretto per una squadra, Gigi, e tu hai vissuto le ultime brutte e perdenti stagioni di Roma per una squadra che non doveva nemmeno esistere più. Questo secondo me è veramente un miracolo italiano. Sì, le premesse appunto erano quelle di una società che non doveva, poteva non iscrivere la squadra, per quello la nostra semifinale, questo 2-0, ha qualcosa di clamoroso. Noi abbiamo già vinto nel campo di Cantù quest'anno, anche se erano 3-4 mesi fa, però ci dà consapevolezza e possiamo fare un altro colpo. E certo, vince adesso una partita su due in quel di Cantù, cioè avvicinerebbe non di poco a una finale che avrebbe ancora del clamoroso, sarebbe la terza nella storia della Virtus, la prima nell'83 quando ha vinto Scudetto, la seconda nel 2008. Però la squadra è stata costruita, quindi siamo spesi tanti tanti soldi perché era quello l'obiettivo, fare la finale e vincere. Questa invece era una squadra che doveva salvarsi tranquillamente, inaspettatamente, con tanto lavoro. Siamo qui e vogliamo appunto raggiungere questa finale che sembra vicina. Senti Gigi, occhi dell'NBA addosso, lo sai anche tu per quanto ti riguarda? Sì, sono venuti a vedermi anche di persona qualcuno appunto dall'altra parte dell'oceano, perché appunto interessavo ed erano curiosi di vedermi dal vivo, però dato che non c'è stato niente di concreto, nessuna proposta, ma soltanto appunto delle presenze a visionarmi, non mi voglio illudere, non mi sono voluto illudere quando sono venuto a vedermi, specialmente adesso che non c'è veramente tempo di pensare a nient'altro che ai playoff, non voglio pensarci, e a fine anno tirerò una linea e vedrò cosa potrà succedere. E tu fai benissimo, ma per chiudere Gigi, in giro vedo un po' troppi frignoni, e non mi riferisco ad Osvaldo, ma a quelli che dicono che la nostra nazionale non vale niente. Io li guardo da appassionato e da esterno questi playoff e vedo Gigi D'Antoni, vedo Hackett, vedo Purunara, vedo Travis Dinner che potrebbe essere convocato, senza parlare di quelli che stanno in America. Sì, c'è Radori, c'è stato Radori, vedo Gentile, sì, insomma. Esatto. Non facciamo proprio così schifo, a me sembra, L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo risultato con una qualificazione, un percorso netto di 8 vittorie su 8, e quest'anno aggiungeremo il talento di Bargnani, forse quello di Berinelli. siamo dei giocatori, tutti i giocatori italiani quest'anno sono ulteriormente cresciuti perché si sono trovati protagonisti, è indispensabile alle proprie squadre in Serie A. Quindi io penso che sarà un'altra bella estate, dovremo sicuramente ricreare il clima della scorsa, cioè, ovvero una squadra che con tantissima voglia di lavorare, tantissima applicazione per lo spirito di squadra, che è quello che ci ha portato al successo. Unito con i talenti individuali potremo continuare a divertirci, mi auguro. Altra serie, cioè quella tra Siena e Varese, anche qui c'è un altro giocatore italiano che sta facendo cose straordinarie ed è Daniel Hackett, ma noi abbiamo intervistato e fatto una lunga chiacchierata con l'allenatore che invece ha vinto la stagione regolare, che ha costruito un meccanismo artigianale meraviglioso come Varese, si chiama Frank Vitucci, lo sentiamo. Buongiorno. Ciao. Coach. Buongiorno. Ciao a tutti voi, buongiorno. Sei d'accordo con quanto dice il tuo giocatore? Beh, sicuramente, innanzitutto mi riallaccio a quello che stai dicendo prima, che ci sono giocatori italiani che quest'anno nei playoff sono protagonisti per le proprie squadre, non sono solo figure di contorno, e questo non può che far bene un po' tutto il movimento, chiaramente anche in funzione della nazionale maggiore, perché questi che hai citato te, dai miei Polonara di Nicolau a Hackett, a Radori, da Tome ovviamente, insomma sono giocatori che hanno un peso specifico che forse negli anni precedenti non avevano le proprie squadre, quindi questo è un dato sicuramente confortante. Questo tipo di livello di partite non può che far loro bene per misurarsi con una realtà, è un livello agonistico estremamente competitivo e elevato. Quindi coach, ci voleva la crisi economica e l'assenza di quattrini per far giocare i giocatori italiani, per scoprire che in fondo non erano così male? Magari la crisi può far sì che bisogna inventarsi qualcosa, no? Per uscirne, bisogna avere un po' più di creatività, cercare soluzioni magari che non erano quelle nelle previsioni di qualche anno fa, però veramente in questo caso non tutto il male viene per nuocere, ma anzi, insomma, assolutamente. Ieri da Tome mi ha detto a questi microfoni, per quanto riguarda l'altra serie, cioè Cantù-Roma, che questa sera vivrà il terzo atto con Roma avanti 2-0, dalla prima partita siamo usciti da un buco e forse non lo meritavamo, nella seconda partita abbiamo capito che forse siamo più forti di Cantù. Tu cosa hai capito dopo aver battuto Siena? Allora, dovete batterla altre tre volte per andare in finale, e sarebbe una finale meravigliosa, io credo, Varese-Roma, perché nessuno avrebbe potuto immaginarla prima dell'inizio del campionato. Cosa serve, fede o ragione? Un po' di tutte e due le cose, un po' anche di lucida follia, no? Ci vuole, perché ovviamente il curioso secondo me di queste due semifinali è che in entrambe ci sono una squadra fatta per l'Eurolega, fatta con l'idea di vincere il campionato, come sia nel Cantù, e due squadre che hanno fatto finora meglio di quello che erano le previsioni e con grande sfrontatezza sfidano, come dire, no, quello che sono stati i protagonisti e che lo sono ancora, i protagonisti di questi anni recenti. Quindi sarà interessante capire come si possa sviluppare la serie, più che guardare così avanti nel nostro, bisogna che guardiamo davanti al nostro naso e quindi pensare solo alla prossima partita. Abbiamo queste due partite consecutive e lì sarà la misura definitiva di quello che saremo in grado di fare contro una squadra di altissimo livello. A vederla così, sicuramente una serie molto dura, molto lunga, molto equilibrata e molto faticosa, quindi sarà molto interessante capire, sì, cosa saremo in grado di fare. Senti Frank, spiega anche ai nostri ascoltatori che hanno letto solo l'occhiello della Gazzetta dello Sport, il mio nome circola ovunque, perché è così, perché hai fatto un miracolo, cioè hai fatto un lavoro straordinario quest'anno a Varese, spero non in questura. No, ma sì, è proprio una battuta, non è uscita così, ma detto, ti è venuta così dall'adrenalina della partita, insomma. No, ho detto, basta che non sia in questura, che circo, per il resto, ma insomma, no, ma miracolo non se ne fanno, bisogna avere, gli allenatori sono bravi, se hanno anche dei giocatori bravi, dei ragazzi che hanno voglia di ascoltare, sì, di vincere, di migliorarsi, che insomma miracoli ne esistono pochi, e tanto meno nello sport. Insomma, si lavora, qualche volta va un po' meglio, qualche volta non si riesce così bene. Quest'anno per il momento sta andando tutto molto bene. Però il bello dello sport è che insomma può ribaltare il senso della ragione, coach. Senti, un'ultima cosa. No, perché per fortuna non è già tutto scritto. Bravo, dire, esatto. No? Quando leggiamo i roster all'inizio dell'anno abbiamo già capito chi vince, chi perde, chi arriva ultimo, chi arriva secondo. Invece così, insomma, la balletta è questa qua. Come mi diceva qualcuno, credo Luca Chiabotti una volta, allora presentiamo, per vedere qual è la Final Four di Eurolega, presentiamo le strade. Conto, perché sennò esattamente. Cosa dici? Non mi ricordo se era Luca o un altro, comunque il senso era questo. L'Olimpia Kos, no, per esempio, a quel livello lì ha dimostrato in questi 2 anni cosa significhi, no? Sì. Senti, ma ti chiedo un'ultima cosa, ma prego. Quell'ultimo tiro libero, Green, che è un super giocatore, perché l'ha segnato a 2 secondi, .08 dalla fine, e tu che cosa hai pensato? Cioè, andata più uno, 2 secondi dalla fine, normale, lo tiri sul ferro, sì. Parte il cronometro. Sì. Poi lì lui non ha capito bene l'indicazione, no. A quel punto ha deciso di far canestro. Sì. Però non è che io mi sia disperato, perché ci poteva stare anche quello, insomma, comunque sia avremmo rischiato il supplementare, anche se poi loro hanno cercato un tiro da 3 punti per vincere, però chiaramente è stato un tiro quasi impossibile, insomma, va bene anche così, eravamo comunque, come dire, fiduciosi che avremmo fatto attenzione alla loro rimessa, intanto bisogna lasciare un pochino anche che i giocatori abbiano questo tipo di... Facciamo così, rischio calcolato, Rischio calcolato. Facciamo un rischio calcolato. Lo diciamo adesso col senno di poi, dai. Però siccome chi vince ha ragione, allora è andata dritta così, dai. Bravo. È andata bene così. Senti, un'ultimissima cosa che è una mia curiosità. Hackett da avversario, secondo me c'è un equivoco su Hackett, cioè tutti, anche Recalcati lo vedeva playmaker. Io dicevo, non ha i tempi del playmaker, non ha una continuità clamorosa nel tiro da fuori, forse non ha il senso del gioco, ma da guastatore mi sembra un giocatore straordinario. Tu da avversario come lo vedi? Ma è un giocatore sicuramente totale, nel senso che può ricoprire più ruoli, può difendere su più avversari, fare più cose, perché sa penetrare, sa giocare in post basso, sì. Comunque bisogna rispettarlo, insomma, un giocatore che magari quando è tornato dal college si pensava dovesse fare a tutti i costi solo il playmaker. Bravo. Poi invece mi sembra che io so qualcosa, perché a Treviso l'ho avuto io i primi mesi, quando invece poi la strada giusta forse è questa qui, come sta facendo adesso, che ricopre più ruoli quando serve fare il playmaker, quando serve fare la guardia, fare la piccola, insomma la multidimensionalità, esatto. Penso che sia il suo pregio migliore, assolutamente. È un giocatore che in questi anni effettivamente è cresciuto molto. Tutti convocati Magazine. Dunque, adesso torniamo, cambiando totalmente argomento e arrampicandoci in cima al mondo, perché ora vi voglio parlare di una storia e di un libro che ha scritto mio amico Dario Ricci, che è qui vicino a me e che ben conoscete. Ciao Dario. Ciao Carlo, ciao a tutti. Che si intitola In vetta al mondo. Sulla vetta del mondo non si è ancora arrampicato Dario Ricci, non so se lo farà mai, ma si è arrampicato Daniele Nardi, che è qui. Ciao Daniele. Ciao a tutti, ciao Carlo. Allora, io voglio sapere questo libro di che cosa parla e voglio sapere questa storia che cosa racconta. In vetta al mondo racconta l'incontro con Dario sulle montagne dei Monti Lepini, perché io, per fargli capire cosa faccio nella vita, cioè l'alpinista professionista, l'ho voluto sulle mie montagne per raccontargli un percorso, un viaggio, che mi sta vedendo tentare la scalata del Nanga Parbat, questa montagna di 8125 metri in Pakistan, in prima invernale, cioè tentarla nel periodo più ostile in assoluto che esiste sulle montagne del mondo. Questa si chiama sfida. Esatto, e quella sfida parte appunto dalla pianura pontina, da Sez, il mio paese, dai Monti Lepini. La particolarità che noi andiamo a cercare, il viaggio che facciamo per scoprire le emozioni, l'incontro, È proprio questo, cioè il fatto che a volte le sfide si possono pensare anche quando le montagne poi in realtà sono un po' lontane, le Alpi, per potersi allenare. Da lì però è partita questa mia grande passione che mi ha visto quest'inverno andare a tentare, che purtroppo non è riuscita, ma sto rilanciando proprio in questi giorni la sfida, proprio la scalata del Nanga Parbat in inverno, che è una delle due montagne di 8000 metri che è ancora rimasta in scalata d'inverno. Ci hanno provato decine di spedizioni, nessuno ci è riuscito, neanche noi. Però andare nella sfida, cioè non solo la prima invernale, ma anche metterci dentro l'apertura di una via nuova e con uno stile molto leggero, che si chiama appunto lo stile alpino. Cioè sì, lo stile usato sulle Alpi, ma portato in Himalaya ed inverno. Sì, sottotitolo del libro Storia del ragazzo di pianura che sfida i ghiacci eterni. La domanda che ti farebbe un bambino dell'asilo: ma tu non hai paura? No, la paura c'è sempre ed è forse il motore che mi aiuta a tornare giù quando è il momento opportuno. Quando ci siamo arrestati a 6500 metri dopo aver superato la parte più difficile dello sperone Mammeri, questo sperone straordinario di grande difficoltà sul Nanga Parbat, abbiamo avuto paura, il nostro cervello ha cominciato a pensare troppo, e quando sono arrivati questi venti a 100-150 km orari, allora abbiamo deciso di scendere. È chiaro che lì le previsioni meteorologiche sono difficili da prevedere e questo cambiamento ci ha indotto a pensare più alla nostra salvaguardia che al resto. È stata la scelta giusta perché il giorno dopo il Nanga Parbat era tremendo. Anche perché c'è un limite, no? Anche alla... lasciamela chiamare incoscienza, lasciamelo chiamare coraggio, però ci deve essere un limite anche quando scali queste montagne, anche quando hai queste imprese in testa. Guarda, io ogni volta che riguardo il libro ringrazio sempre Dario, perché lui ha saputo cogliere questa voglia per me di superare la frontiera dell'alpinismo invernale. Il limite sta lì, la frontiera significa che fino a oggi ciò che io sto cercando di fare sul Nanga Parbat d'inverno non è mai stato provato su nessuna montagna di 8000 metri, ed è quel desiderio di capire se quel limite può essere infranto nel futuro con la tecnologia che noi abbiamo attualmente in uso in questa nostra epoca storica. Allora lascio il microfono a Dario, così fai al tuo coautore qualche domanda interessante, magari anche sulla tecnologia o su queste montagne che sembrano inespugnabili addirittura d'estate. Adesso ci si prova d'inverno, perché così io credo che in questo sport l'essenza di questo sport sia la ricerca del limite, e il limite è là in alto, lo guardi nel cielo, no? Eh sì, è proprio quel sottile puntino che unisce la cima col cielo, con l'infinito. Tra l'altro parliamo con Daniele, abbiamo la fortuna di parlare con lui, alpinista estremo professionista, proprio a 60 anni dalla prima scalata dell'Everest, no? Con Sir Helmut Hillary, con Tenzing Norgay, che compirono quell'impresa. Beh, Daniele, tu lavori anche tanto sui materiali, perché ogni grammo è decisivo per te per cercare di vincere la tua sfida. Ecco, sono passate di fatto delle ere geologiche tra quel 1953 ed oggi, 2013, sotto questo punto di vista, no? Beh sì, tanto. Io faccio parte dell'Alpine Extreme Team di Saleva e diciamo con loro li aiuto anche a sviluppare materiali sempre più leggeri, performanti e che possano nella leggerezza e nella termicità trovare quella caratteristica che ci permette a noi poi di salire su in vetta. È chiaro che l'impresa che fecero Hillary e Tenzing Norgay fu qualcosa di straordinario, prima perché l'Everest non era mai stato scalato prima, quindi non avevano cartine, non sapevano bene dove passare, non sapevano cosa avrebbero incontrato, non sapevano neanche se sarebbero sopravvissuti all'area sottile degli oltre 8000 metri, dei quasi 9000. Oggi invece molte risposte ce le abbiamo, quindi il nostro limite va spostato sulla ricerca della velocità oppure della via particolare di salita, chiaramente a differenza di allora senza ausilio supplementare di ossigeno. Questa è la sfida, almeno per gli alpinisti professionisti. Poi è chiaro che una spedizione commerciale cerca ben altro, non cerca quel tipo di avventura e quel tipo di limite. Ecco, interessante anche Carlo dare degli esempi concreti. Per te la ricerca del limite vuol dire anche che ne so, andare su a quota 7000 portandosi dietro magari in due, così come è capitato sul Nanga Parbat con la tua compagna di scalata Elizabeth Revol, un sacco a pelo estivo in due da dividersi, oppure da mangiare qualche cibo liofilizzato, ma soprattutto crackers, proprio perché il cibo rappresenta un peso. Beh, il conto si fa facile. Allora, quando si parla di stile alpino significa caricarsi tutto sulle spalle e non usare né corde fisse, né sherpa, né ossigeno, né campi preallestiti. Se io mangiassi un chilo di cibo al giorno in 5-6 giorni di scalata avrei 6 chili nelle spalle. È troppo. Infatti, quando parlo se la tecnologia ci potrà supportare a sufficienza oggi per fare quel tipo di impresa che andrò a ridentare quest'inverno, è anche sull'alimentazione, cioè se esiste qualcosa abbastanza calorico, proteico, ma in un peso molto contenuto che riesca ad abbattere quel tipo di problematica. Scusami, ma mi viene spontanea una domanda, ma il tuo rapporto con il freddo, cioè ci andassi io mi porterei 8 litri di vodka? No, ci hanno provato i kazaki, è andata a finire male al campo base. Sì, no, abbiamo un paio di esempi. Hanno nascosto le bottigliette nelle scatole delle sardine, avevano aperto queste scatole, hanno tolto le sardine per far passare la dogana, hanno messo dentro le bottigliette di vodka, poi festa grande al campo base. Sì, festa grande al campo base, eravamo tutti sdraiati come delle lepri sopra il ghiacciaio, quindi... il freddo lo combattiamo sicuramente con una tranquillità nell'ambiente che è fondamentale, è una questione psicologica che comunque non ci porta al panico, e questa è la cosa più importante che ci scalda dentro. E poi la tecnologia, la piuma, che deve essere sempre più di qualità, sempre più leggera e posizionata all'interno delle camere, delle giacche, in maniera che possa esprimere quel volume tale per cui perché poi non è la piuma che produce calore, chiaramente, è il nostro corpo, ma la piuma ha la capacità di trattenerlo e mantenerlo all'interno dell'abbigliamento, è fondamentale. Senti, ma quando arrivi lassù e guardi giù, guardi il panorama, qual è la sensazione che provi? In vetta al mondo. Cioè la luna è come Neil Armstrong, è un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, non lo so, mi viene in mente questo perché io lassù non ci sono mai stato e probabilmente non ci andrò mai, no? Però immagino che sia qualcosa del genere. È qualcosa di stupendo, è difficile descriverlo. Io dico sempre che è come un'esplosione di gioia multicolore, piena di musica straordinaria, quando tutta la fatica, i sacrifici attraverso le montagne, si arriva fino a quel punto più in alto e si può finalmente gioire di tutte le fatiche, sempre ricordandosi che poi la vera vittoria sarà quando si torna giù a campo base. Sì. Eh sì, è quello che raccontiamo proprio anche in Vetta al Mondo, no? La capacità di Daniele di saper dire anche di no di fronte, per scegliere la vita piuttosto che la vetta. Daniele, siamo in volata finale. Allora, questo inverno tornerai a raccontarci proprio anche tramite Radio 24 questa nuova sfida al Nanga Parbat? Assolutamente sì, sto già organizzandomi, migliorando i materiali, migliorando l'allenamento con l'esperienza comunque che ho avuto quest'inverno, che è stata fondamentale per capire ancora meglio quello che sto andando a fare, e quella frontiera è quel limite che voglio abbattere, per cui mi sto allenando. Beh, noi ti aspettiamo qui. Assolutamente, cioè, sempre. O se vuoi veniamo a trovarti lassù. Se passi te è meglio, dai, per praticità. La sfida che hai lanciato all'inizio non è poi così sbagliata. Mi sembra che Dario Ricci stia dicendo che forse una capatina al campo base se la farà nel prossimo futuro. Ieri eravamo arrivati a quello 2000, oggi già 4000. Piano, andiamoci piano. Io vi guardo dalla televisione, va bene. Vi ascolto per radio al telefono satellitare e vi aspetto qui. Bene. Perché non so se ce la faccio. Non... No, magari facciamo non mettiamo limiti. Intanto leggiti in Vetta al Mondo, infinite edizioni, dai. Sì. Ragazzi, vi ringrazio e ovviamente Daniele Nardi in bocca al lupo, ti seguiremo ovviamente, ti aspettiamo qui naturalmente, e che la montagna sia espugnata o che non lo sia, perché c'è sempre una bella storia da raccontare. C'è sempre una bella storia da raccontare, perché la sfida è la prova. Io dico sempre che, insomma, la vacanza è il viaggio quando vado in giro in moto, no? Per me, appassionato di moto, io credo che per te l'avventura sia la scalata, non la vetta. Assolutamente sì. Penso che hai capito appieno che il viaggio è la cosa più importante, la meta poi, che è la vetta, a volte non è sempre la vetta fisica. Bravo. Ma è comunque qualcosa che ci portiamo a casa, un'esperienza straordinaria che ci fa crescere, che ci fa incontrare degli amici e parlare di qualcosa di bello della nostra passione. Per noi che abbiamo bisogno del vento sulla pelle, in un modo o nell'altro. Grazie Daniele Nardi, grazie a Dario Ricci, leggetevi In Vetta al Mondo così ne capirete di più. Adesso ci fermiamo per il traffico e poi chiudiamo il nostro appuntamento del sabato con il magazine. Che cosa prova un uomo? Che soddisfazione? A starsene abbarbicato con 40 gradi sotto zero, magari a una roccia, col rischio di precipitare. Che pensieri vengono in quel momento? Ecco, lì per lì sembrerebbe una cosa da matti pensare di trarre piacere da queste condizioni. Ma in realtà, appunto, come lei giustamente diceva, è un misurarsi, è un confrontarsi, un verificarsi. Il piacere non avviene sempre durante, viene soprattutto prima. Ecco, io potrei dire che il più grande, il vero piacere che io ho provato accingendomi a un'avventura è stato, il più grande piacere è stato quello di averlo concepito. Tutti convocati Magazine. Tutti convocati in Magazine, e tutto questo alla faccia, non voglio essere pesante, di quelli che dicono che solo il calcio sta nei nostri pensieri e nei nostri discorsi. Vi abbiamo portato sui campi da basket, in montagna, in alta quota, dove ci sono imprese impensabili, dove si provano imprese impensabili. Se questo non vi basta, ditemelo voi, ogni giorno potete farlo, all'800240024, non ditelo a me, siete voi che decidete gli argomenti. Poi non mi dite parlate solo di Inter, parlate solo di calcio, sempre le stesse cose. Quali stesse cose? Cosa volete sentire? Io invece sul calcio voglio tornare per divertirmi, perché è stata questa anche la settimana di Rafa Benitez, come ho detto mille volte, la scelta migliore che De Laurentiis potesse fare, di Rafa Benitez, allenatore del Napoli. De Laurentiis lo ha annunciato da Los Angeles con un tweet, come già aveva detto: annuncerò il nuovo allenatore via Twitter. L'ha detto e l'ha fatto, poi tra poco si ripresenterà in Italia, e considerata la carica di De Laurentiis in questo periodo ne vedremo e sentiremo delle belle. Intanto sentiamo le reazioni, riviviamo in musica anche quello che a Napoli è successo in settimana. Ho concluso il mio ciclo, 4 anni a Napoli, stupendi. Il nuovo allenatore mi deve convincere per le palle che c'ha, e le palle sono rotonde, quindi la circolarità del convincimento deve essere totale. Abbiamo fatto sentire quello che avete sentito, è il coro bellissimo secondo me dei tifosi del Liverpool per Rafa Benitez, che è stato l'allenatore che li ha condotti in cima all'Europa. A Napoli però, come sapete, amano essere originali, quindi non vogliono mutuare cori da nessuno, e allora anche lì, oltre ad inserire già, ad aver già inserito Benitez tra le statuine del presepe, si sono pure inventati, Lino D'Angiò, praticamente l'imitatore ufficiale di Laurentiis, ebbene anche lui si è inventato qualcosa di diverso per Benitez. Ma sto Benitez mi piace perché è un allenatore cazzuto, poi già subito si è ambientato col Napoli, le piace le cose di Napoli, mi sembra un po' olio, eccolo, ve lo presento, Rafa Benitez, sembra olio, uguale, oh, ma questo ci fa vincere, senti qua, Io mi chiamo Benitez Rafael e sono allenatore di Napoli Olé. Io mi chiamo Rafael Benitez e vinco le coppe del 2003. Io non faccio mai catenaccio, di avversari riducono straccia. Io sono una bella speciale, con calma glaciale parlate con me. A me passano 4 campioni, 3 avanti Cavani, Insigne e Pandè. Tutte le altre che soffrono tensie potete buttarle in un fene per me. Alla fine mi assente per palle, mi sbottone, mi metto l'occhiale. Mi consiglio col presidente, gli spiego che pensa Benitez Rafael. Ma Benitez Rafael, sulla tavola volle là, lo scudente a volte più bello, soltanto quello che voglia. Mi fa male da ridere, non so, voi che non amate scherzare sul calcio, su quello che considerate magari, secondo me a torto, un argomento così, così serio da prenderla sempre sul serio. Però io lascio in fondo la parte che più mi piace di questo magazine, che è quella di riascoltare i commenti settimanali dei nostri ascoltatori. Ovviamente sono moltissimi e io vi ringrazio pubblicamente, lo farò ogni giorno in ogni modo che posso. Ebbene, riascoltiamo gli interventi che ci sono piaciuti di più, tra ironia, che è la cosa che più mi diverte, e analisi anche avvedute e corrette. Allora, vi vogliamo così sempre. Ricominciamo ad ascoltare dunque i nostri ascoltatori per una top player che oggi comprende 4 telefonate. Luca Treviso, poi andiamo a casa. Oh, Carlo, grazie per la convocazione inaspettata. A te, Luca. Ascolta, due cose. Beh, uno, la parola top player, che ormai mi mancava oggi. Non l'aveva ancora detta nessuno. Aboliamola, non ne posso più, mi vengono i brividi, ti vengono le bolle. Esatto, soprattutto i mister, in primis Mazzarri, che non mi sta simpaticissimo, quando non sa che dire tira fuori sta parola che è un'oscenità. Quindi facciamo basta, così, basta. Daniel Hackett è un top player, almeno per il campionato italiano. Ok. E dopo un'altra cosa, la differenza, non scopro sicuramente l'acqua calda, ma la differenza tra il calcio italiano e tedesco. Domenica sì, il Borussia è tornato in Germania e uno stadio quasi strapieno lo ha osannato e proclamato. La Roma ha perso la Coppa Italia e al Pullman gli hanno tirato dietro. Gli hanno tirato le verdure, sì. Qualsiasi le cosa. Le verdure nella migliore delle ipotesi. Disastro. Grande, sei un grande, trasmissione fantastica. Sei un grande tu. Roberto Rimini, buongiorno. Sull'Inter volevo dire che io spero che Moratti non venda. Perché? Magari con un po' di sacrifici e tenendo qualche giovane. Mi sembra una cosa vedere quella faccia lì che fa da presidente, non mi piace. Vedi che in Italia il calcio è così? Cioè il calcio non è solo quattrini, non è solo affari, è passione estrema e quindi è molto difficile per chi viene da fuori essere credibile, farsi amare. Gianluca Pesaro. Sì, convocato è presente. Ciao. Presente, ciao Gianluca. Ciao. Ascolta, un ascoltatore di prima, quando parlava dell'Udinese, mi sembra di aver capito che accennasse al fatto che la Lazio fosse una squadra spendacciona. Ho capito male? Sinceramente non ricordo. Ha detto perché parlate di tutte le altre, compresa la Lazio, non dell'Udinese. Non mi sembra che abbia detto qualcosa del genere. Ha detto che la Lazio ha avuto anni fa, e non è un segreto, e lo sai anche tu, ha avuto il beneficio di poter spalmare un grosso debito fiscale in più anni, e questo beneficio è indiscutibile, no? Aveva comunque, voglio dire, quindi non è un qualcosa fatto ad hoc per la Lazio. Ma detto questo, tutti, non so se sapete retroscena, ma la corsa di Lodito e Motorino all'ultimo momento per depositare e salvare la Lazio, depositare il contratto, è una cosa che ha raccontato per radio, scritto proprio a Radio 24, ed era una cosa bellissima. Questo per dire, però la Lazio non credo che sia spendacciona. Presidente soprannominato a Roma, lo sanno tutti, lo tirchio. Quindi che spenda tanto proprio, anzi dovrebbe sfoltire e magari investire meglio. Paolo Bologna, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Allora, da dove partiamo? Assolutamente interista e credo che ormai, come dire, per seguire le vicende del mondo del calcio bisogna uscire dallo sport e ahimè dall'Italia. Io vorrei dire di questa cosa che per motivi di lavoro sono a conoscenza da un po' di tempo, può sembrare forse fantascienza, ma si dice, notizie vengono dall'Inghilterra, che la manovra in atto sarebbe la seguente: i Moratti vogliono cedere l'Inter, credo che questo si sappia, sta montando una new company cosiddetta, sì, che rileverebbe la maggioranza. L'ho letta anche oggi, quella thailandese? Non solo, però cosa comporta? C'è tutta un'altra manovra a cui a capo per un certo periodo di tempo potrebbe rimanere Moratti come presidente con una piccola quota dell'Inter, una sorta di transizione, e comporterebbe probabilmente il ritorno di Mourinho. Quando? Mourinho investe sì di allenatore ma di manager, consideriamo che questa è un'operazione che avrà un tempo di circa 3 anni, dove era in preventivo. Attenzione. E uno, perché Mourinho, potete immaginare che non potrebbe mai allenare l'Inter attuale. L'Inter attuale è una squadra mezza, però sa che qui un piatto di minestra lo trova sempre, e infatti non manca di sottolinearlo tutte le volte. Adesso vado là perché devo andare. Però anche, l'Inter. Anche perché si ritrova in una situazione difficile Mourinho ora, perché lui ha sempre detto che non farà come Pellegrini, che andrà a allenare al Malaga, ma di fatto si ritrova solo col Chelsea libero. Sì. E il Chelsea adesso se ne sta approfittando, gli sta chiedendo un contratto di un anno in Paris più. Paris Saint-Germain anche Paris Saint-Germain, però volendo. Un campionato poi sicuramente meno interessante. Sì, meno interessante, però c'è il grano e c'è la possibilità di fare molto bene in Europa. Attenzione, Paolo da Bologna dunque ci ha disegnato questo. Io lo ringrazio, ci ha disegnato questo scenario. E con le voci dei nostri ascoltatori adesso ci salutiamo. Naturalmente lunedì tutti convocati, tutti, compresi quelli che avete ora sentito parlare. 800 24 00 24, questo numero non scordatelo mai. Tutti convocati lunedì alle 2. Franco Piantanelli, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao e buona domenica a tutti.